Anche la finanziaria di quest'anno è un provvedimento che giudichiamo come campagna Sbilanciamoci in modo negativo perché non dà nessuna svolta nel senso di un nuovo modello di sviluppo e di politiche incentrate alla sostenibilità ambientale e all'equità sociale. La finanziaria di quest'anno sostanzialmente continua nel taglio delle spese sociali e delle spese per la cooperazione internazionale, degli investimenti in uno sviluppo di tipo diverso. È una finanziaria che sostanzialmente cerca di raschiare il barile per far fronte ai parametri fissati dal patto di stabilità e per contenere il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, con delle operazioni di risparmio che però, come ricordavo prima, si traducono sostanzialmente in meno risorse per le spese sociali, ambientali e per la cooperazione internazionale. Nel contempo, anche se diciamo di poco, ma viene ridotta la spesa militare, molto poco diciamo rispetto ai tagli nelle spese sociali, nelle spese ambientali, le spese per la difesa poi sono rimpinguate perché nel finanziare le missioni militari italiane all'estero si utilizzano fondi a parte, fondi diciamo che sono previsti da stanziamenti ad hoc dal Tesoro, come l'anno scorso in finanziaria quando ho messi 1.200 milioni di euro per le varie missioni militari italiane nel mondo. Di fronte a questo scenario noi ribadiamo invece delle proposte alternative, come già abbiamo fatto nel forum per l'impresa di un'economia diversa di Parma. Queste proposte hanno a che fare con l'utilizzo della leva fiscale in senso progressivo e con lo spostamento diciamo, dell'uso della leva fiscale dal lavoro, diciamo, dalla tassazione dei redditi da lavoro alla tassazione dei redditi da impresa e da rendita, in modo tale da sostenere il welfare, la spesa sociale, gli spesi, diciamo, la spesa per gli investimenti in un modello di sviluppo diverso. Sosteniamo quindi l'aggravio dell'aliquota più alta, quella del 45% per diciamo, i redditi super ricchi fino al 48,5%, proponiamo la tassazione delle rendite finanziarie in modo adeguato, in modo da recuperare risorse, e proponiamo una serie di tasse di scopo finalizzate a sostenere un modello di sviluppo diverso, quindi la carbon tax, quindi la tassa sui diritti televisivi sullo sport spettacolo, la Tobin tax e insomma altri provvedimenti di questo tipo che servono a recuperare risorse e a frenare quel tipo di diciamo, investimenti di produzioni che noi riteniamo dannose o comunque sia non utili socialmente. Per fare che cosa? Come lo stavo dicendo, sostenere e rafforzare e sviluppare le politiche di welfare, sostenere e rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo che sono state ulteriormente tagliate anche quest'anno dopo il taglio del 15% dell'anno scorso e sostenere diciamo, produzioni alternative, diverse di un'economia appunto nuova che sia fondata sulla sostenibilità ambientale, quindi energie pulite, energie rinnovabili come il fotovoltaico oppure l'altra economia, quindi i distretti di economia solidale, le forme nuove di finanza etica, di commercio ecosolidale e poi diciamo, politiche di sviluppo sociale attraverso il sostegno le forme di sviluppo locale che conosciamo tutti diciamo, attraverso il ruolo degli enti locali e delle regioni. E con queste in sintesi alcune delle proposte sulle quali anche quest'anno ritorneremo, in particolare il 14 ottobre organizziamo la presentazione della nostra controfinanziaria, presentazione che si terrà alla Camera dei Deputati con la distribuzione delle nostre proposte che ovviamente saranno molto specifiche, articolate e puntuali.